Bene, dunque spazio a interventi, domande, osservazioni, riflessioni. Va bene, mi prendo questo onere terribile della rottura del ghiaccio. Allora, io avevo una domanda un po' indirizzata al primo intervento del professor Fallop, ma credo che assolutamente possiate, se lui non è più connesso, eventualmente rispondere voi, che è un po' legata a un fenomeno che personalmente io noto negli ultimi tempi di riappropriazione di dei termini considerati denigratori da parte delle minoranze, proprio per riconnotarli e partendo da lì per rivoluzionare in qualche modo anche il concetto che viene costruito attorno ad essi, e se potevate darci qualche spunto in merito. Invece era un'osservazione ad un pezzo della traduzione di Martina, giusto? Non evidenziati in viola, che ho notato inavvertitamente, forse era relativo al libro Cemetery Boys, dove hai tradotto La signora dei morti. Esatto, Sì. e mi chiedevo questa cosa, se, però forse l'hai spiegata un po' alla fine dicendo che a volte il plurale è generico. Però niente, mi ha stimolato una riflessione sul fatto che effettivamente da morti perdiamo il genere, non lo so, però era un'idea così. Grazie mille. Vorrei rispondere alla prima parte dell'intervento. Allora, personalmente faccio un esempio, così può essere anche ritrovato in internet. La comunità trans l'anno scorso, ma anche io mi incasino col Covid, ha avviato su Facebook, sui social, una campagna che si chiama Guardami, in cui le persone trans potevano mandare la propria foto e la propria storia o qualunque messaggio volessero lanciare come una bottiglia online. A moltissime persone utilizzavano riappropriandosene dei termini che in verità la comunità invita a non utilizzare più, ma proprio per rivendicare il percorso che hanno fatto e anche per ristabilire di chi ha il potere sulla parola, quindi di rimettere in un certo senso le cose in ordine. Sottolineo anche un'altra cosa: quella campagna è preziosa perché in verità è un archivio online di storie e di come la comunità che va dalla persona, dalla giovane persona di 14 anni alla persona anche sulla settantina, quindi ha tutta una visibile, fruibile l'autopercezione di una comunità online e anche è un esempio di autonarrazione, di come l'autonarrazione sia potente proprio per andare a scardinare e per saltare tutti i filtri che invece i media mainstream ci mettono in mezzo. Una delle grandi qualità di internet, con luci e ombre assolutamente, però è stata quella di rendere possibile a persone anche minorenni di arrivare ad alcuni contenuti che non potevano raggiungere, perché nelle librerie non esistono certe cose, perché in televisione non le passano, perché dovrebbero recarsi fisicamente magari in alcune associazioni e non possono da soli o da sole o da solo. Quindi c'è tutto un mondo assolutamente di possibilità ed è il mondo che adesso viene attaccato come causa di questa epidemia, per esempio di transizioni. Se posso rispondere riguardo alla questione morti, come dicevo, abbiamo fatto questa scelta di utilizzare la Shva solamente in riferimento alla comunità Bruhex. Tutto il resto del testo, il maschile generico, cercando di usarlo sempre il meno possibile, però appunto anche solo Signora dei Morti viene ripetuto un numero incalcolabile di volte nel testo, quindi sarebbe stato pesante, poi almeno per me. E quindi abbiamo deciso di fare questa scelta che appunto è incompleta, però è un po' dettata da forze di causa maggiore, no? Insomma. Però grazie. No, volevo aggiungere una cosa, in realtà non tanto sulla riappropriazione, su quello mi viene da dire forse una grande banalità, però forse è bene sottolinearla, che non tutte le persone sono pacificate con il fatto che non solo non tutti abbiamo lo stesso modo di fare cose con le parole, ma che è anche giusto che, per esempio, le persone che appartengono a una specifica comunità abbiano modo di usare quelle parole in maniera più libera di chi è esterno alla comunità, no? Quindi se un rapper nero usa la N-word, non vuol dire automaticamente che io bianca possa usare la N-word senza conseguenze, no? E questa è una cosa che è molto discussa, cioè spesso mi trovo in discussioni online in cui, di solito sono giancosi, ma insomma... quelli definiti spesso maschi bianchi etero basic si lamentano, ma loro possono usare il termine X e perché io no? È perché da una parte c'è un movimento di riappropriazione, dall'altra c'è ancora la valenza di te esterno alla comunità che offendi la minoranza o insomma o qualcuno di marginalizzato. Quindi questo secondo me era importante, cioè prima che esca la parola da quel contesto lì ci vuole moltissimo tempo. I percorsi di riappropriazione delle parole offensive sono lunghi, per esempio è riuscito col termine queer, no? Che per sé vuol dire strano e che inizialmente era usato appunto in maniera derogatoria, però sono percorsi sui quali gli interni possono fare dei balzi in avanti, ma quella cosa, quel movimento di riappropriazione spetta alle comunità, no? Quindi io da esterna certe parole faccio... caso, cerco di non usarle. Non so se avete notato che Federico Faloppa fa una scelta che io condivido, che è quella di mostrare i documenti dove, nei quali vengono citate parole offensive, ma sia io sia lui, ho imparato da lui, evitiamo di pronunciarli. Ovviamente in consessi anche come questi, che in un certo senso sono abbastanza safe, no? Perché è ovvio che stiamo facendo dei discorsi metacognitivi su certe parole, però queste parole sono offensive. E quindi sono degli schiaffi, delle scudisciate in faccia a persone che quelle parole se le sentono dire spesso. È vero che conta l'intenzione, ma l'intenzione non basta. Cioè, quando si usa una parola bisogna considerare, secondo me, sempre tre coordinate. Certo le intenzioni che uno ha, ma anche il contesto e gli interlocutori, che è esattamente quello che non hanno fatto i mitici Pio e Amedeo quando in prima serata hanno usato la parola con la N, la parola con la F, o forse era la parola con la R che si usa invece la parola con la F, dicendo no, ma noi non stiamo offendendo, cioè comunità marginale, ve lo diciamo noi che non è offensivo, quindi voi non dovete offendervi. Vi ricordo anche che Pio e Amedeo hanno poi vinto un premio di satira per la freschezza e innovazione della loro serie, che la cosa mi ha fatto molto ridere, perché voglio dire, è il primo modo di offendere le persone che impariamo quando abbiamo tipo 3 anni, quindi vabbè. E poi volevo aggiungere una cosa, scusate se sconfino, perché in realtà anch'io traduco, anche se dall'ungherese, quindi traduco di solito testi di autori morti e quindi... No, di altri tempi soprattutto, per cui i problemi legati al genere non sono rilevanti in quei testi lì. Per esempio ho tradotto molte cose di Magda Sobo, che chiaramente sul genere non si interroga un granché, anche se è una donna profondamente femminista e veniva da una famiglia molto matriarcale, in cui i maschi erano considerati degli accessori, lo dice lei varie volte. Però proprio perché sono traduttrice, anch'io faccio caso a cosa succede nelle traduzioni. Mi sono venuti in mente un paio di esempi. Uno inverso, cioè quando questo libro italiano verrà tradotto cosa succederà, e almeno due che invece ho visto nella pratica dall'inglese, in particolare all'italiano. Uno di questi è la serie, sempre di fantascienza, dei Murderbot Diaries, i diari della macchina assassina. Il gioco lì è che il Murderbot, cioè la macchina assassina, è considerata un it, quasi per tutto il libro, e poi in realtà a un certo punto emerge piuttosto chiaramente che c'è una ricerca di umanità, perché la macchina assassina è un robot con delle parti biologiche, e quindi la domanda fondamentale di questa serie di libri è: quando è che finisce l'umano e inizia il robot, o viceversa, quando è che c'è una coscienza umana? Sono dei libri molto belli che vi consiglio. Chiaramente il gioco it, he, she, si perde nell'italiano, viene chiamato al femminile la macchina, no? E quindi si parla di lei nei termini della macchina, e quindi lì si è fatta una scelta di semplificazione, no? Ma forse non sarebbe stato neanche il caso di usare altro, però è un problema che cioè leggendolo è una questione che mi sono posta. Un altro è il caso di Ragazza, donna, altro, di Bernardino Evaristo, tradotto molto molto bene da Martina Testa, con cui fra l'altro mi sono confrontata su queste cose. C'è un'unica cosa che non è stata tradotta, che forse, dove forse si poteva rischiare di più, la metto in questi termini, che è l'esergo. Perché nell'esergo Evaristo dedica questo libro a tutta una serie di persone storte, chiamiamole così, cioè dice for the sisters and the sisters and the sisters and the sistren and the women and the womb xn and the women and the women con la y and our brethren and brethren brothers brooves men mandem and the lgbtqi plus members of the human family. E questo esergo che contiene tantissimi esperimenti intorno alla parola man, woman, sister e brother, semplicemente non è stato tradotto. Ora, la stavo cercando perché io adesso ho scaricato ora in live la versione Kindle e l'esergo non c'è, però io sono sicura di averlo letto in una versione breve, forse nella versione stampa che ho del 2020, non lo so, che era tipo alle sorelle, ai fratelli, agli uomini, alle donne, ai membri della comunità LGBT. Quindi la questione era stata posta. Allora io avevo provato a fare una traduzione in uno scritto, poi è stata tagliata questa parte da uno dei miei libri, per le sorelle e le sis e le fratelle e la sorellanza e le donne e le donne X e le femmine e le uome e i nostri confratelli e compari e fratelli e bro e i nostri maschi e compagni e tutti i membri LGBTQ, eccetera, eccetera. Cioè si può fare. No, io l'avrei fatto. E infine su lui, neutro, la casa editrice FQ e io usiamo lei, L. Schwai, e questa cosa ha ricevuto una bella accelerazione quando Jonathan Bazzi ha fatto un post su Facebook in cui citava proprio il pronome lei. Ora qualcuno avrà da ridire perché è una situazione in cui lo schwa si trova in sillaba tonica. Sapete che c'è quel meme inglese I wanna be a schwa, the schwa is never stressed, no? Quindi in teoria lo schwa non è mai sotto accento, però mio padre, filologo ugrofinnico col quale mi sono lungamente confrontata sulla questione, mi ha detto che non è neanche così vero, cioè ci sono delle lingue in cui lo schwa può essere in posizione tonica e quindi sotto stress, insomma, sillaba tonica. E quindi lei è vero che è un attimo difficile lì per lì da pronunciare, ma poi pensiamo alla lingua cosa, che è quella che c'ha tutti i click, no? E improvvisamente lo schwa diventa a piece of cake, credo. Lo chiederei, io guardando ad esempio il programma di Mind the Gap, leggevo femminismo anticoloniale, femminismo anticapitalista. Quello che io volevo chiedere è, ma può esistere un femminismo che non sia anticapitalista, anticoloniale? Cioè di per sé nella parola femminismo, penso ci siano già questi concetti. E ve lo chiedo perché ci sono, ad esempio, dei movimenti, correggetemi se sbaglio, magari di donne che difendono i diritti delle donne ma escludendo le donne transgender. Ecco, quello che vi chiedo, non so se ho detto qualcosa di sbagliato nel... Ok, no. Che secondo voi è necessario stabilire magari dei principi, delle basi del femminismo, comunque per definirsi femministi, se ci sono già, se è necessario chiederli meglio, ecco. O se ce ne possono essere tante, non lo so. Provo io poi teoria vuole che non ci possa essere un metro per dire tu sei femminista, tu non sei femminista. Mio personalissimo parere è però che puoi andare a vedere se qualcuno lo sta strumentalizzando, che è molto diverso. Allora, è vero che ci sono il femminismo marxista, il femminismo transfemminista, sono le inflessioni su cui magari quella corrente si concentra di più, ma non nega le altre. Quindi la cosa principale è, semmai, non appunto ti misuro e vediamo, ma lo stai strumentalizzando o no? Cioè, ti stai mimetizzando, no, in una cosa per far passare un altro tipo in verità di messaggio che vuoi dare. Quindi lì è l'attenzione. Tutto il resto, magari ci sono appunto tanti femminismi che hanno forse delle predilezioni in alcuni temi, ma che non negano l'esistenza e non vanno a nuocere o a contrapporsi agli altri. Mi sento di aggiungere solo una cosa. Se è un femminismo che traccia un nuovo confine fra chi è dentro e chi è fuori, in realtà è solo una forma edulcorata di patriarcato, per quanto mi riguarda. Quindi, cioè, o si è tutti dentro o si è tutti fuori. Sono perfettamente d'accordo, ovviamente, con gli interventi fatti. Aggiungo che, appunto, il percorso proposto dal CIRSD, dal titolo Nuovi Femminismi, ha proprio questa intenzione di andare a indagare quelle che sono tematiche affrontate all'interno delle dei vari posizionamenti che ci possono essere. Infatti si parla di femminismi al plurale, e l'intenzione anche dell'incontro di questa mattina e dei tavoli aperti è proprio quello di ragionarci insieme, solo per mettere anche questo tocco di pluralità, no? Si parla di femminismi, appunto. E quello che volevo dire io, da persona che si occupa di attivismo LGBTQ e femminista, è che secondo me bisognerebbe molto cambiare anche il modo in cui i media parlano, perché andrebbe tantissimo a modificare sia l'opinione pubblica, ma anche il modo in cui poi la politica parla. Perché ovviamente tutta la questione del linguaggio è molto strumentalizzata dal punto di vista politico per continuare a opprimere le identità minorizzate e metterle le une contro le altre. E soprattutto andare poi a colpire chi non si può difendere perché magari non appare sui giornali. Infatti, come diceva Ethan, spesso e volentieri le persone delle identità minorizzate non vengono neanche interpellate, né quando si è parlato di DDL Zan al Parlamento, né quando se ne è parlato sui giornali. Venivano intervistate poi persone della comunità LGBT, spesso e volentieri se venivano intervistate erano sempre le stesse e solitamente uomini cis. Quindi anche in quello, in una legge che doveva comprendere anche la misoginia, fa veramente, cioè è veramente assurdo. E, nel mio piccolo, io almeno cerco di utilizzare la Shoah spessissimo, il più possibile in realtà un linguaggio di tipo inclusivo, nel senso non utilizzare la Shoah se posso, come appunto faceva gli esempi Martina, però appunto cerco di farlo scrivendo articoli, nel senso che da un anno tengo una rubrica in cui scrivo articoli utilizzando sempre il neutro, cioè parlando della collettività al neutro, e mi è capitato anche per esempio di intervistare una persona non binaria utilizzando quindi il neutro anche nei suoi confronti. Questa cosa in realtà la pongo come esempio perché ha modificato la percezione di molte persone che leggevano i miei articoli, nel senso che l'utilizzo del neutro è poi stato normalizzato per loro e spesso e volentieri utilizzano la Shoah senza neanche rendersene conto. Quindi nel loro linguaggio è entrata questa cosa perché appunto è diventata una cosa normale. E oltre a questo nessuno si è reso conto delle persone che di solito tirano su polemica che io lo stessi utilizzando, sia perché magari non prestavano particolarmente attenzione ai miei articoli o a quello che io scrivevo, ma poi io l'ho dovuto far notare esplicitamente, scrivendo uno stato un po', diciamo, per sollevare polverone quando è uscito il discorso nazionale sulla questione della Shoah. E essenzialmente io ho fatto questo stato un po' provocatorio in cui ho detto: ah, comunque io sono una persona LGBTQ, anche neurodivergente, perché si parlava della questione che la Shoah può essere difficile per le persone neurodivergenti, che è assolutamente una cavolata pazzesca, e io ho detto: io sono una persona LGBTQ neurodivergente e utilizzo la Shoah in articoli di giornale da più di un anno e nessuno mi ha mai detto niente, essenzialmente. E ovviamente si è tirato su un polverone perché c'erano i famosi giancosi da tastiera che mi dicevano: oh mio Dio, cosa stai facendo alla lingua italiana? Oh mio Dio, le persone dislessiche, perché ovviamente poi si tirano fuori le persone dislessiche che non c'entrano assolutamente in niente. E ovviamente si è tirata su una polemica senza senso. Oddio, questo discorso in cui mi sono un po' persa, per dire semplicemente che secondo me uno dei principali problemi per la questione del linguaggio e del fatto che viene tirata fuori questa questione della dittatura del politicamente corretto è anche perché le persone LGBTQ, le persone che si occupano di femminismo o le donne in generale, spesso e volentieri vengono escluse anche dal mondo del giornalismo. Nel senso che non potendo scrivere articoli di giornali sulle testate maggiori, di maggiore risonanza a livello mediatico italiano, poi non, cioè, effettivamente non possono passare determinate cose e normalizzarle. E infatti è un grande problema del nostro giornalismo nazionale, perché anche come si vede poi che si parla di femminicidio sulle testate nazionali, è veramente una cosa aberrante, o anche quando succede qualcosa a una persona transgender è veramente aberrante. E questo perché c'è appunto un soffitto di cristallo mediatico in cui la narrazione nazionale viene portata avanti sempre e solo dalle persone che hanno, diciamo, l'egemonia a livello culturale, ovvero uomini di mezza età, bianchi, cis e etero, semplicemente. Quindi niente, volevo porre questa riflessione sul fatto che, cioè, se ancora sembra strano, ancora si continua a parlare in questi termini, comunque di quello che è un linguaggio che semplicemente cerca di includere tutte le persone. E anche per questo, cioè anche perché c'è questo grosso problema di mancanza di rappresentanza dal punto di vista proprio giornalistico. Allora, mi piacerebbe innanzitutto ringraziare per i preziosissimi spunti di riflessione, assolutamente grato da questo punto di vista. E vorrei anch'io lanciare un pochino una riflessione, prendetela come una domanda aperta a cui chiunque potrebbe rispondere, perché penso sia una cosa che ha riguardato nel piccolo e nel grande ognuno di noi, ognuna delle persone che è in quest'aula da questo punto di vista. E io mi sento sempre un pochino a casa a questo tipo di convegni, però quello che sento oltre a questo è anche essere parte di una piccola bolla da questo punto di vista, nel senso che tendenzialmente mi circondo di persone che sono d'accordo su questo tipo di tematiche, e poi diventa anche un po' difficile rendersi conto di come ragionano le persone che invece sono al di fuori di questa bolla. E per quanto io apprezzi tanto stare a ragionare con persone che sono tendenzialmente d'accordo su determinati temi, quello che davvero vorrei imparare a fare, quello che davvero vorrei cercare di capire, è come parlare di questi temi e dell'importanza di questi temi, sia a livello di linguistica che a livello di diritti umani, perché sono entrambi temi che sono molto toccati dai discorsi fatti qui stamattina, alle persone che magari non hanno magari compreso l'importanza di questo tipo di tematiche, comunque non sono d'accordo con questo tipo di discorsi o tendono a mandare il discorso in cacciara una volta che si apre da quel punto di vista. Per cui quello che vorrei chiedervi è se nella vostra esperienza, nella vostra vita quotidiana o anche soltanto nelle discussioni sia accademiche che di tutti i giorni, avete trovato delle strategie, dei punti di incontro che secondo voi ritenete utili a cercare di fare un po' di meno che la situazione diventi squadre di calcio, per dire un... Parliamo di strategie senza menare, però, ok, va bene. Va bene. È difficile perché parti sempre da una situazione di disparità. In questo senso la riporto la mia assolutamente di tematica e di esperienza. La strada in salita, perché tu intanto devi farti capire, primo, secondo, devi smontare tutto un discorso che è stato già fatto e delle convenzioni, quindi è molto in salita. Quindi devi essere una persona estremamente centrata, perché la cosa che ci dicevamo poi anche prima, mi hanno detto, il tuo intervento è stato comunque molto pulito e in qualche modo morbido. E io ho fatto la battuta, ma è una tragica realtà. Ho detto, sai, noi dobbiamo sempre essere due volte più bravi e controllarci due volte. Perché se reagisci si perde il concetto, si perde quello di cui si sta parlando e si va sulla tu hai fatto, tu hai detto, tu hai reagito. Quindi la cosa che io utilizzo, che ho imparato e che sto ancora imparando, è veramente la comunicazione non violenta, ovvero stai attaccato, attaccata a quello di cui si sta parlando. Quindi la ragione è un'altra cosa, già se ci si riunisce per aver ragione le squadre le ha già fatte, uno. Quindi cercare di portare il focus sul confronto, quindi io allargo quello di cui possiamo parlare, quindi è lì ti metti già in posizione vincente prima di sederti a un tavolo, quindi se quella è l'impostazione e l'energia del tavolo c'è spazio, non importa avere ragione. Se l'energia è già deve uscire una squadra vincente, abbiamo già perso, quindi l'unica cosa che se c'è quell'energia è rimanere veramente molto centrato e non perdere energie perché è inutile, capire anche quando alzarsi dal tavolo perché a volte è completamente inutile e rimanere più attaccato possibile al concetto, alla parola. Semmai se l'altra persona è particolarmente aggressiva perché vuole ingaggiarti o ha bisogno di ingaggiarti, riprendi le sue parole, le riformuli e ne chiedi la conferma di quello che sta dicendo. Quindi io ti faccio confermare che sei una persona aggressiva. Quindi questo è, e riporti l'energia a un altro livello di quel tavolo o consesso. Se posso aggiungere una cosa, visto che è il mio pane quotidiano, premetto una cosa di sistemica. Non sono i social media che hanno reso il dibattito polarizzato, sono 50 anni di dibattito pubblico nella forma X versus Y. E quindi quello che casomai succede sui social media è che questa tendenza alla polarizzazione ne esce pure esacerbata, cioè c'è l'idea, il mito del confronto a tutti i costi. Cioè io con te terrapiattista non devo confrontarmi. È il motivo per cui in tutta la polemica, cioè nella fase massima e più accesa di polemica dello Shoah, in realtà io non sono mai intervenuta sui giornali, sulle riviste o in televisione, proprio perché ho detto avete contribuito a avvelenare i pozzi, io ne sto fuori. E questo, diciamo così, a latere. Per il resto, io penso che la cosa più importante sia fare da exemplum. Cioè, se uno crede in certi principi, che siano quelli del femminismo, dell'intersezionalità, quello che volete voi, prima di tutto questi principi vanno vissuti e applicati nella propria vita quotidiana, nel piccolissimo delle proprie scelte linguistiche. Per esempio, al di là della questione non binaria, io ho un po' capovolto quella che è la regola tipica delle persone che vivono in Italia, cioè io appello tutte le donne professioniste al femminile, quindi l'avvocata, l'agricoltrice, la ministra, quello che volete voi, salvo poi accettare anche di usare il maschile se la persona dall'altra parte me lo richiede. Però intanto ho fatto un'inversione di paradigma, per cui per me, come del resto le regole della norma italiana prescriverebbero, le donne che lavorano sono tutte declinate al femminile. E questo vuol dire che prima di tutto ho cambiato il mio comportamento, il mio modo di comportarsi. Mi confronto spesso con attiviste, soprattutto giovani, molto giovani, che mi chiedono come si fa a far passare la bontà della mia idea in un contesto che è assolutamente ostile. E allora io risponderei con una cosa che mi dice sempre una mia amica Chiara, cioè mica hai messo tu i chiodi a Cristo. Cioè, non è che il ruolo di ogni attivista è quello di cambiare il mondo macro. Cioè, prima di tutto cambiamo noi stessi e poi cambiando noi stessi agiamo sull'intorno immediato, facciamo micro influencing, perché è dall'apertura delle microbolle che poi si crea una coscienza, una consapevolezza diversa. Io non voglio agire sul giancoso che è convinto che siano millenni che il maschio bianco è l'essere umano più marginalizzato dell'universo. Cosa abbiamo da dirci io e te? Cioè, a parte gli scherzi. E quindi quello è un genere di scontro che io rifiuto. Cioè non voglio convincerti a cambiare radicalmente idea. È come avere a che fare col negazionismo. Cioè che gli vuoi dire? Sono convinti. Quello che si può fare è fare divulgazione pacatamente, no? In maniera più pacata possibile, perché come dice Kubra Gyumushai nel suo bellissimo libro Lingua Essere, quando lei è musulmana, dice quando un musulmano attraversa una strada col rosso, con lei attraversano con il rosso 1 miliardo e 900 milioni di musulmani. no? Ed è quello che succede, quindi se una femminista si arrabbia, ci sono femministe più incazzose di altre, allora tutte le femministe sono isteriche, no? C'è questo ridurre tutto a una massa indistinta, una sorta di intelligenza collettiva Borg. Quindi bisogna cercare il più possibile di rimanere pacati, però, ripeto, nessuno ha prescritto a una persona che crede in un certo tipo di attivismo di convertire le masse. Cioè, si agisce sul proprio intorno. E volevo leggere una micro citazione da un libro molto bello che vi consiglio, non c'è in italiano, che si chiama The Gentrification of Mind, la gentrificazione della mente, di Sarah Schulman. E questa è la traduzione mia, non ve lo leggo in inglese, l'ho tradotto io e quindi è una traduzione un po' ballerina, però rende l'idea. Cioè, per trasformare le strutture, noi che ne beneficiamo dovremmo accettare che i nostri privilegi sono continuamente rafforzati, ma non sono stati guadagnati. E che altre persone, che sono attualmente considerate come inferiori, semplicemente non sono esposte al processo permanente di falsa inflazione, no? Di falso ego, insomma, e alle sue concrete conseguenze materiali. Affrontare questo significherebbe alterare il nostro senso di sé, che da meritatamente superiore ha gonfiato. E sarebbe scomodo. Essere a disagio o chiedere agli altri di sentirsi a disagio è praticamente considerato antisociale, perché la rivelazione della verità è tremendamente pericolosa per la supremazia. Di conseguenza abbiamo una società in cui la felicità dei privilegiati si basa sul non avviare mai il processo per diventare responsabili. E quindi secondo me quello che si può fare è di prendere atto, diventare responsabili anche del proprio privilegio, che non è una colpa. Cioè non è che il maschio bianco etero basic è colpevole, come la donna bianca etero cis che sono io, non è questione di colpevolezza. Però è questione di smettere di dare per scontato che io abbia più diritto alla felicità di altre persone con altre caratteristiche. Poi, ovviamente le domande sono sempre da parti opposte della sala. Questo... Buongiorno, salve. Allora, io avrei due domande. E faccio una breve premessa per, così, per essere inquadrato. Io credo che una certa mentalità machista ha fatto altrettanto male agli uomini che alle donne, mi ci includo anche. Comunque, detto questo, io avrei due domande importanti. La prima pertinente al linguaggio e la seconda al potere, ma sarò sintetico. Allora, la prima, siamo sicuri che il linguaggio funziona come una nomenclatura? Cioè che i significati hanno un'importanza maggiore del senso, e non è la stessa cosa, come ci insegna pure Deleuze, tra l'altro. Quindi cambiando, intervenendo sui significati dei pronomi, noi modifichiamo il senso? È necessario? Non è una visione un po' troppo oggettivistica del linguaggio? Allora appunto veramente come una nomenclatura, e passatemi il termine, anche un po' teologica del linguaggio. Stiamo facendo teologia? Prima domanda. Seconda domanda, il potere. Apprezzo molto Pierpaolo Pasolini, con tutti i limiti e difetti che può avere, e lui diceva il nuovo potere, scriveva nei scritti corsari e anche nelle lettere luterane, è assolutamente anarchico, non è conservatore, se ne batte dell'eterosessualità, se ne batte del maschio, se ne batte... Siamo sicuri che ancora identificare il potere col maschio bianco eterosessuale sia attuale? Non esiste ormai un potere del tutto asessuale, agender e persino anarchico, in realtà, come diceva Pasolini, che è il potere del mercato. E lo vediamo anche, lo vediamo nei media. Ciò detto, persistono, cioè non nego che persista anche un tipo di rapporto gerarchico di ordine conservatore, e una parte del potere lo rappresenti, per esempio Donald Trump, ma secondo me è quella che sta perdendo. Quindi se vogliamo mettere in discussione il potere, credo che forse fare un ragionamento anche che prescinda dall'identificare il potere sempre con le vecchie categorie ci potrebbe aiutare. Scusate la polemica non voluta. Insomma. No, non c'è. No. Allora, intanto non penso che nessuno a questo tavolo e anche nessuno in sala abbia questa visione assolutistica del linguaggio come solutore di problemi. La questione è riconoscere la complessità della relazione fra linguaggio, realtà e società. Non a caso Benjamin Whorf, il padre della teoria della relatività linguistica, che nella sua forma più estrema è stata ampiamente sconfessata, ma che sopravvive nella sua versione debole in molti ambiti, l'antropologia, la sociolinguistica, la psicolinguistica, la neurolinguistica, parlava di entanglement quantistico, cioè diceva che fra lingua, società e realtà c'è una relazione di intreccio tale che la domanda sbagliata da farsi è quale viene prima. Ed è anche sbagliato ovviamente agire solo a livello linguistico. Se c'è un pericolo di tutta la discussione sul politicamente corretto o della sua, come si dice, deriva, perché è possibile una deriva politicamente corretto, è l'idea che cambiando le parole si possa cambiare in assoluto la struttura della società. No, però ci può essere un effetto, come dire, di un circolo virtuoso. Ecco, si può dare inizio a un circolo virtuoso fra questioni sociali, questioni di realtà e questioni linguistiche. Cioè io non ho questa fede sovrumana nel linguaggio, però riconosco che se si agisce a livello di linguaggio non è che si cambi la realtà, ma si permette si fa sì che si vedano meglio certe cose rispetto a quando non si nominano. E questo spiega anche perché c'è in questo esatto momento storico una tale necessità di tassonomizzazione, per esempio delle varie, come si dice, caratteristiche, varie identità di genere o dei vari orientamenti sessuali, no? Per esempio, diversi mesi fa, grazie sempre a mia figlia che è una specie di radar, ma lo so che poi sembro la boomer che dice pensate, però ecco, ho scoperto gli aro, no? Cioè le persone aromantiche, che ovviamente essendo io quella che sono, lì per lì mi erano sfuggite, no? E quindi anch'io imparo costantemente cose e anch'io ogni tanto da boomer mi chiedo ma c'è bisogno di tutti questi nomi? E poi la risposta che mi do è sì, cioè in questo momento sì. In questo momento c'è un'esplosione tassonomica che però è motivata dalla situazione socioculturale. Sull'altra cosa, cioè sul potere, a me sembra che invece, per quello che vedo in giro, il potere è ancora saldamente in mano a quello che si diceva, soprattutto ai maschi, soprattutto bianchi, soprattutto eterosessuali, soprattutto cisgender. Ci sono deviazioni da questo, certo, però il grosso, secondo me, è ancora in mano a questa parte della nostra società. Secondo me invece sì, poi non so le altre persone a questo tavolo cosa ne pensano, ma solo un'osservazione. Secondo me è estremamente interessante parlare di sistema e di potere, però portare il discorso a livello astratto e disincarnarlo dai corpi trovo che sia molto pericoloso, perché poi in una posizione di potere ci sono persone che hanno corpi e quindi sono persone in carne e ossa. Per cui dare una descrizione di chi detiene il potere in questo momento storico è estremamente importante. Io faccio una chiosa velocissima, perché con buona pace di Pasolini, che ha fatto delle analisi squisite e raffinatissime, non era minimamente a contatto con tantissime realtà che il potere non lo toccavano neanche. Quindi ecco, diciamo che la posizione dal quale lui ha fatto determinati tipi di analisi va considerata, perché appunto se no l'astratto partorisce delle idee che possono avere delle conseguenze molto pesanti. Poi possiamo discutere su quale tipo di potere, nel senso ognuno di noi ce l'ha, è in grado di usarlo intanto, e quale potere in questo momento forse ha anche la facoltà di plasmare di più ed è ancora quel tipo di potere, anche statisticamente proprio in mano di alcuni tipi di persone che hanno determinate caratteristiche. Se astraiamo rischiamo di scivolare nel All Life Matters in questo tipo di, però è estremamente interessante parlarne, ma appunto il contatto col corpo, con la realtà è fondamentale, altrimenti non so, ecco, colleghiamole, possiamo parlarne sia in maniera astratta e poi la riportiamo e vediamo cosa succede in questa osmosi tra le due approcci. Posso aggiungere una cosa? Mi vengono in mente due libri che ho letto di recente, che tutti e due parlavano dell'allargamento anche del potere. Uno è di nuovo The Gentrification of Mind, in cui Shulman fa riferimento a una specie di elite LGBT, QI+, che è quella che si adegua a quello che la comunità non LGBT vuole vedere nella comunità LGBT. Quindi il gay friendly, ma il friendly gay, your friendly neighborhood gay, che non ti spaventa, che sta dentro alle righe e che quindi può invitare per esempio ai talk show eccetera eccetera. E addirittura in fondo al libro di Shulman c'è tutto un dialogo con un personaggio molto in vista della comunità gay americana che lei fa vedere nella pratica, vedete cosa vuol dire essere conforming, no? Scusate, non è in italiano il libro. E un'altra è proprio Chiara Bottici, che in Manifesto Anarca Femminista ricorda che c'è anche un'elite femminile e femminista, che a volte dimentica il contatto con le radici. E quindi non è che non ci siano dei corpi intermedi o verso l'alto che creano a loro volta, pur non essendo maschi, bianchi, eterocis, delle elite e dei grumi di potere, dei gruppi di potere. Però ecco, vanno anche individuati e bisogna anche rendersene conto. Per esempio, una cosa che spesso succede alle donne in posizioni di potere è quella di mascolinizzarsi, no? Il classico mito della donna con le palle, scusatemi il francesismo, però non è un caso, cioè non vuol dire che sia allargata la base di potere, vuol dire che certi tipi di potere ci si adegua, ecco, a un certo modello di potere, quindi siamo sempre, secondo me, siamo sempre nello stesso ambito. Non so, poi leggete questi due libri e poi potrebbe essere uno spunto interessante per parlarne. Io volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva Manuela sui corpi. Io credo che l'astrazione se la possa permettere un determinato tipo di persone che si possono dimenticare di avere un corpo, in qualche modo. Nel senso che a volte ti ricordi di avere un... Come per esempio le persone... sono, per esempio, in americana di Chimamanda Ngozi Adichie, dice che lei ha scoperto di essere nera quando è andata in America. La stessa cosa, no? Tu scopri di avere un corpo quando il tuo corpo non è conforme rispetto a quello che la società, diciamo, no? Ti dice che sia. Quindi è tanto bello parlare di astrazione, di potere, in modo astratto, appunto, però dobbiamo ricordarci che appunto i corpi che contano, cioè, dice anche Butler, quindi